Sconvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. 800 24 00 24, numero che assolutamente oggi dovete comporre per partecipare con noi a Juventus Roma, per parlare anche di quello che è successo questa mattina a Suzuka. Oggi compleanno Radio 24, 4 ottobre, i 15 anni. Beh, oggi chi interviene in diretta, regaliamo una maglietta, la maglietta dei 15 anni di Radio 24, bellissima. 800 24 00 24. Potete anche scrivere sms 349-238-6666, siamo in onda fino alle 20, perché non perdiamo nemmeno un minuto di Juventus Roma. Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Fabio Cantadori in regia, poi arriva anche Pierluigi Pardo, arrivano anche altri ospiti per commentare insieme il primo incrocio scudetto di questa domenica molto lunga, particolare, che non ha ancora espresso il meglio. C'è anche Dario Ricci allo Juventus Stadium. Dario! Eccoci, ben trovati dallo Juventus Stadium. Giovanni, se sei d'accordo, subito le importanti novità di formazione che arrivano da Torino, clamorosa quella tra le file juventine. Max Allegri recupera e schiera dal primo minuto Andrea Pirlo al posto di Arturo Vidal, quindi Juventus che schiera Buffon in porta, difesa 3 con Caceres, Bonucci, Chiellini, centrocampo da destra a sinistra con Lichtsteiner, Marchisio, Pirlo, Pogba e Asamoah, davanti Tevez e Llorente. Due importanti novità anche nella formazione giallorossa nella Roma di Rudy Garcia, in difesa Olebas al posto dell'annunciato Col e in avanti ai Turbe, vicinissimo quest'estate proprio alla Juventus ad aver vinto il ballottaggio con Florenzi. Roma che quindi schiera Skorupski, come previsto non recuperato, De Sanctis, difesa 4 con Maicon, Manonas, Yanga, Biwa e Olebas, centrocampo con Nainggolan, Keita, Pjanic, in avanti il tridente Gervinho, Totti, Iturbe. Quindi queste sono le due formazioni, formazioni di grandi recuperi, Iturbe che era dato in panchina nella Roma e Pirlo che fin qui non ha praticamente giocato nemmeno un minuto. Dario Ricci, resta lì ovviamente con te, poi restiamo collegati fino alle 20, fino alla fine di questa partita, di questo Juventus-Roma, in questa domenica bestiale, oltre che lunghissima, una domenica, ormai lo sapete, che questa mattina è iniziata così. Bianchi che viene trasportato, è stato trasportato, quindi la conferma è che Jules Bianchi, che ha evidentemente avuto un impatto violento uscendo dopo Adrian Sutil, abbiamo visto la dinamica, Jules Bianchi trasportato dall'ambulanza al centro medico, ovviamente adesso aspettiamo aggiornamenti per capire quelle che sono le condizioni del pilota francese della Marussia. Non ho visto niente, non sapevo neanche che c'era questo incidente, mi hanno detto solo alla radio che c'era un'ambulanza alla curva 15. Speriamo che sia tutto bene con lui, è un grande amico e spero che sia tutto a posto. La gara è iniziata troppo prima, perché già all'inizio non si riusciva a guidare, non si riusciva a vedere niente e è finito troppo tardi. Io quando c'era la safety car era 5 giri che sgridava alla radio che doveva fermare la gara, che non si vedeva niente, però ci ha messo troppo tempo e c'è stato un incidente. Queste le parole di Felipe Massa. In questa domenica bestiale c'è un ragazzo di 25 anni che lotta tra la vita e la morte, è Jules Bianchi, pilota francese di Nizza, pilota della Marussia, che si è schiantato sotto la gru che stava sollevando la Sauber di Sutil, che era uscita poco prima dal circuito sotto una pioggia battente in un Gran Premio fortemente condizionato dalla pioggia e che certamente ricorderemo, ovviamente sperando che Bianchi possa riprendersi. È stato operato ma ha gravi lesioni alla testa, ricorderemo anche per la scelta di correre e di non sospenderlo. E Giorgio Teruzzi, collega di Mediaset, ciao Giorgio. Buongiorno. Ricorderemo per quel Gran Premio che forse cambierà qualcosa nelle regole. Sì, ma il problema sono due cose diverse. Un conto è la pioggia, possiamo discutere sulla pioggia, correre sì, correre no. Un conto è questo incidente, che è una cosa a parte, cioè un incidente che ha delle responsabilità enormi, perché se hai una ruspa in pista non puoi far andare avanti la corsa su una traiettoria di uscita di di possibile incidente dove infatti era uscito sottile, cioè, puoi mandare avanti una corsa. Sì, cosa che invece capita in Formula 1, abbiamo capito che non capita ad esempio nell'automobilismo americano, dove se c'è una macchina ferma la gara viene sostanzialmente neutralizzata prima che possa ripartire. Invece in Formula 1 non viene fatto, c'è stato raccontato anche per evitare delle gare a trenino dietro le safety car che piacciono poco. Sì, però questo, cioè, va bene, è vero, però in Formula 1 hanno sempre interrotto, o quasi sempre, quando c'è stato un mezzo di mezzo pesante in pista. Era successo una cosa simile in Brasile nel 2003 con Schumacher, che uscì sfiorando un mezzo di questo tipo qui, adesso chiamiamole gru, ruspe o non so quello che, trattori. Ci fu una polemica enorme, cioè, possiamo discutere sulla formula dei metodi di sospensione, ma questa è un'eventualità che supera qualunque criterio, cioè se c'è un mezzo di recupero vetture in pista si ferma, cioè non sta nessuno in terra, perché... Sì, c'è stata la sensazione di un po' di confusione in quel momento, eravamo sul finire di una gara credo molto faticosa anche per i commissari, per la direzione gara, una gara che era partita con una doppia partenza, con la safety car, con anche l'ipotesi che non si corresse, perché a un certo punto c'è stata anche quell'ipotesi, c'è stata un po' di confusione lì in fondo. Sì, però tutti facciamo fatica a certi momenti, certi altri no, ognuno si deve prendere le proprie responsabilità. Cioè, la direzione corsa fa la direzione corsa, se gestisce male una corsa, fatica o non fatica, si prenda la responsabilità di aver gestito in modo scandaloso una corsa, perché questo incidente qui è un assurdo, questo non è un incidente di corsa, questo è un incidente che ha altra natura e che non sta né in cielo né in terra che succeda durante un Gran Premio, una corsa non sta, punto. Ognuno si prende le sue responsabilità. Sì, tra l'altro potevano anche venire investiti i commissari, perché in quello spicchio di via d'uscita, tra l'altro abbiamo scoperto molto corta all'uscita da una curva cieca, stavano lavorando anche i commissari per togliere la vettura di Sutil. C'era lo stesso Sutil che abbiamo visto inquadrato in alcune fotografie portarsi anche la mano tra i capelli, perché evidentemente è stato chiaro subito a chi era lì. Noi ci abbiamo messo qualche minuto in più perché la FIA non ha fatto trasmettere le immagini, però è stato chiaro a chi era lì immediatamente la gravità della situazione. Ti chiedo, Giorgio, un minuto di pazienza, abbiamo il traffico 800 24 00 24, ricordo gli amici a casa, noi siamo in onda fino alle 20 per seguire poi anche Juventus Roma in diretta da Torino, poi con Pierluigi Pardo, vi aspettiamo, aspettiamo i vostri pronostici adesso, i vostri commenti durante la partita. 800 24 00 24, traffico. Incidente incredibile, perché una macchina va fuori, dopo arriva il pickup truck e dopo Bianchi arriva. Questo circumstances non foreseeable, come si dice. È un incidente grave, speriamo e vediamo come lui. Tutti convocati. Questa è una difficile decisione, prendi Charlie Whiting, e Charlie Whiting, quando ho visto la macchina di Sutil fuori la pista, lui ha preso questa decisione, tanti momenti primi è uguale, so in questo momento non è la sua colpa. Questa è la voce di Niki Lauda, perché poi anche all'interno del mondo della Formula 1 discorso aperto, discussione aperta su cosa fosse meglio fare in quel momento, il momento dello schianto di prima di Sutil e poi di Jules Bianchi. Ovviamente siamo in onda fino alle 20 anche per continuare a darvi notizie, se arriveranno in Giappone adesso è notte. In questo momento Bianchi, dopo essere stato operato alla testa dove ha riportato gravi lesioni, è ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni restano critiche. Giorgio Teruzzi, collega di Mediaset, per chiudere il discorso, abbiamo sentito prima Massa che ha sottolineato come da qualche giro stava chiedendo di sospendere la gara. Ora Lauda fa parte dello stesso mondo dire che la direzione gara ha preso la scelta migliore. Sì, ma lui è un cinicone. Queste sono le contraddizioni del mondo della Formula 1. No, ma cioè, allora, di chi è la colpa? Allora, una Formula 1 durante un Gran Premio esce di strada, esce di pista e prende una ruspa, no? Di chi è la colpa? Perché prende una ruspa, cioè non è un incidente di gara. C'è una ruspa in pista, la direzione corsa vuol dire che ha autorizzato o non ha fermato una corsa con una ruspa in pista. Come si fa a dire che la responsabilità della direzione corsa non c'è? Quando ce l'ha la responsabilità, o corpo e chi ce l'ha? Cioè, non sta in piedi, no? Sì, è arrivato forse il momento di normarlo in maniera definitiva. Se entra un mezzo estraneo, no, a quello, è una norma, a quello che è lo svolgimento della gara, si ferma la gara. Ma certo, ma è già una norma, no? Quando avete visto correre un gran premio con i camion che portano via le macchine? Non si è mai visto. Spesso però si vedono queste gru che spostano queste macchine, poi si va avanti il regime magari di bandiera gialla, spesso con la safety, però si va avanti. No, ma le gru a braccio lungo che calano, agganciano la macchina, la portano via sotto safety car è un paio di maniche. Qui è diverso. La direzione corsa sa che in alcuni punti ci sono le ruspe, non è che sono di passaggio. Perché? Perché devono entrare in pista perché non c'è altro mezzo per rimuovere una macchina incidentata. La direzione gara sa dove sono le ruspe perché non ci sono i bracci lunghi, non c'è altro sistema. Quindi se un pilota esce con una macchina e si pianta in un punto in cui è previsto l'ingresso di una ruspa, cosa che la direzione corsa sa perfettamente, entra la ruspa e quindi succede qualcos'altro che andare avanti a correre. Sì, oggi è successo qualcosa che non è nemmeno contemplato in quello che di solito accade all'interno di un circuito. Grazie a Giorgio Teruzzi. A voi, grazie. Grazie a Giorgio Teruzzi, 800 24 00 24, se volete dirci anche cosa ne pensate di quanto accaduto a Suzuka. Ricordo, oggi per chi interviene in diretta, la maglietta celebrativa per i 15 anni di Radio 24 e adesso Juventus Roma. Si viene a 3 scudetti vinti, abbiamo grande voglia di riconfermarci e quindi di rivincere lo scudetto. Non sarà facile, però nello stesso tempo credo che battere la Juventus è sempre molto difficile. Ma noi giocheremo come l'abbiamo fatto martedì, con ambizione, per dare difficoltà alla Juventus, sapendo che loro hanno anche delle forze sicuramente. Una partita importante perché siamo in testa alla classifica insieme a loro, una squadra che si è rinforzata molto e soprattutto ha trovato grande autostima e consapevolezza dei propri mezzi. Che loro sono favorito è ovvio, non vuol dire che sulla partita di domani non saremo in grado di dire la nostra e di andare là per vincere. Una partita o un positivo o un negativo non può precludere l'andamento e il raggiungimento degli obiettivi di una stagione. Non è che se decide il campionato dopo questa gara, anche se vinciamo noi, non sarà chiuso, perché se no è mancare di rispetto a tutte le altre squadre. Questo sì. Dopo ho sentito, forse sul piano psicologico può essere interessante, ho un vantaggio, forse lo vedremo dopo la partita e avremo le risposte. Non è che sarà decisiva perché poi mancano altre 32 giornate, ma io credo condizionante comunque, soprattutto per come verrà fuori questa partita. 800 24 00 24, Enzo Bucchioni, direttore del QS. Ciao Enzo. Tutti, buon pomeriggio. Decisiva no, condizionante secondo me, da un certo punto di vista potrebbe esserlo. Ma assolutamente, assolutamente condizionante per entrambe le squadre, per entrambi gli allenatori, perché Roma dovesse vincere, dovesse passare, l'anno scorso ricordiamo ha perso 3-0, sarebbe un'iniezione ulteriore di autostima, il convincimento che questo è l'anno buono, che lo scudetto si avvicina, mentre la Juventus dovesse non vincere o perdere, comincerebbero a mettere in gioco il lavoro di Allegri, le scelte di stasera, so che recupera Pirlo all'ultimo momento. Sì, gioca Pirlo al posto di Vidal, questa è la notizia di formazione Juventus. Esatto, mi sembra un grande azzardo, quindi una partita così, oltre a non essere mai banale, è sempre decisiva in qualsiasi situazione, la psicologia c'entra moltissimo. Sì, a proposito invece di quello che è successo questo pomeriggio, ti faccio sentire Stramaccioni, che sta parlando ai microfoni di Rai Sport. Stramaccioni? Una partita che se la Roma c'è qualche problema di audio. Stramaccioni che ha visto svanire il suo terzo posto proprio all'ultimo secondo, pareggiando in casa con il Cesena. Leggo la classifica: Juventus e Roma 15, ma aspettiamo l'incrocio di tra meno di un'ora. Poi Sampdoria 14, Udinese 13, Milan Verona 11, Lazio 9, Inter Genoa 8 e poi via con il resto della graduatoria. Ricordiamo oggi 20:45 perché non c'è soltanto Juventus Roma, Fiorentina Inter e Napoli-Torino. Mi sembra, Enzo, che piano piano cominci a prendere una fisionomia questa classifica. Aspettiamo Juve-Roma, ma ad esempio la vittoria di ieri del Milan ha riportato sotto una di quelle attese a fare da protagonista. Sì, assolutamente, il Milan è fra le squadre che non lotteranno per lo scudetto, perché chiaramente sono in due a lottare per lo scudetto, però dietro il Milan deve porsi delle ambizioni, se non è il terzo posto sicuramente il ritorno in Europa League, quindi con la vittoria di ieri che ha detto tante cose, anche di un ritrovato equilibrio, per la prima volta il Milan non ha preso gol e questo è un bel segnale, questo assetto con l'utilizzo di Bonanotte a centrocampo ha dato dei buoni risultati, quindi il Milan è avviato a riposizionarsi in una posizione che gli compete. Ti sorprende la Sampdoria? 1-0 all'Atalanta e in questo momento terzo posto in classifica, quota 14, grande show di Ferrero in campo, ha esultato, poi certamente vedrete tutte le immagini. Ti sorprende? No, Ferrero non mi sorprende affatto, come non mi sorprende la Sampdoria, perché ha un ottimo allenatore in panchina, Mihajlovic, che sa lavorare. Aspetta che intanto molto... ti faccio sentire l'audio di Torino, meno 35 minuti a Juve-Roma. Che ha iniziato il riscaldamento, per chiudere il discorso sulla Samp, penso. No, una squadra che ha un giusto mix fra giovani molto interessanti e un saturo anziano, penso a Palombo, con un allenatore importante come Mihajlovic, che in piazza con poca pressione, come è stato a Catania, dove ha fatto benissimo, sta facendo altrettanto bene a Genova. Sarà la rivelazione della stagione, siamo pronti a scommetterci, anche se il campionato è cominciato da poco, con un grandissimo giocatore che si chiama Gabbiadini e un Okaka ritrovato che sembrava un giocatore perduto, la Roma ci ha scommesso tanti anni fa, ora è ritornato, evidentemente ha trovato una maturità importante. Sì, prima o poi ce lo troviamo anche in nazionale, credo. Mi pare che Conte sia molto attento a quello che dice il campionato. Abbiamo visto la convocazione di Rugani, la chiamata di Bonaventura, anche la chiamata di Pellè. Oggi ha perso Pellè con il suo Southampton, però il suo inizio di stagione resta straordinario. Per chiudere, Enzo, a me interessa molto di questa domenica, almeno per quello che ha detto fin qui, ciò che sta succedendo in fondo alla classifica, perché continua a perdere il Parma, che ha perso 5 partite su 6, oggi ha perso anche il Palermo. Secondo te resta Iachini? Ma Iachini, gli umori del presidente sono sempre strani, mi sembra già, sottolineo strano, che non l'abbia esonerato fino ad oggi, dopo soprattutto la batosta che ha preso con la Lazio. O è cambiato Zamparini o evidentemente Iachini sta facendo un buon lavoro, però un buon lavoro complessivo. Oggi però la partita è stata veramente brutta, ecco, se c'è un allenatore che si è mandato via, a volte è mandato via immeritatamente. Dopo la partita di oggi mi chiedo Iachini quanto possa durare, e soprattutto, guarda, la sorpresa vera di questa di stagione è il Parma che l'anno scorso è andato in Europa League, poi sappiamo che non ci gioca per vicende burocratiche, però in fondo alla classifica con 3 punti soltanto sta succedendo veramente qualcosa. Sì, forse sta facendo davvero grande fatica. Donadoni forse non ha più le giuste motivazioni dopo tanti anni, sono andati via dei giocatori importanti come Parolo, Amauri anche aveva il suo peso, Cassano mi sembra un pochino deconcentrato, è una squadra che ha tanti problemi, ecco lì bisogna incidere presto. Sì, grazie Enzo. Grazie a voi tutti, buon pomeriggio, ciao. Enzo Bocchione, direttore del QS, lo sentiamo Donadoni a proposito, Rai Sport. Cassano denota un momento di difficoltà, quantomeno per quello che riguarda l'impostazione della vostra retroguardia, e questo è il principale problema che devi affrontare? No, assolutamente non è una questione di difesa, è una questione di vedere e valutare determinati errori che sono capitati, del resto i difensori sono quelli che avevamo anche l'anno scorso, almeno per 3/4 della difesa di oggi, è solo che a volte probabilmente la tensione eccessiva gioca dei brutti scherzi e questo non agevola, ma la difesa ha chiaramente le sue colpe, come ce l'ha il resto della squadra, come ce l'ha il sottoscritto soprattutto, e quindi tutti insieme dobbiamo lavorare insieme per cercare di sopperire quelle che sono anche delle mancanze oggettive importanti, perché insomma dalla difesa ci mancano un giocatore come Cassani, un giocatore come Paletta, e chiaramente sono due pedine importanti. Sì, siamo appunto degli infortunati per il Parma, 3 punti in 6 giornate, è però certamente molto meno di quanto Donadoni si aspettasse. 800 24 0024, Adriano, provincia di Roma. Adriano. Sì, buonasera, Andrea, a tutti i radioascoltatori. Dice Adriano. Sì. Allora, dicevo, in merito all'incidente di Suzuka, sì. mi sembra veramente incredibile dire che non esistano regole che impongano di fermare la gara in una situazione del genere. Diciamo pure che gli interessi economici sono talmente importanti e quindi i direttori di gara non se la sentono di interrompere la gara, perché altrimenti saltano loro. Ma evidentemente esiste, Adriano, una zona grigia di possibilità di interpretare. Teruzzi ci raccontava che con una gru in pista la gara va sospesa, c'è stata tanta confusione in quel momento, però spesso oggi si corre con condizioni migliori rispetto a qualche anno fa. Oggi giravano immagini Suzuka 1994 con ad esempio condizioni di pioggia e di pista nettamente peggiori, e là si era partiti regolarmente e per almeno una quindicina di giri si era corso. Però è difficile chiamarla fatalità quella di oggi. Giovanni da Pavia, Giovanni. Sì, salve. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Ascolti, io volevo intervenire in merito all'incidente di oggi. Cioè, non esiste, ma veramente non esiste, che non ci siano responsabilità da parte dei giudici di gara. Cioè, è una roba veramente incredibile. Cioè, adesso la famiglia di questo qua la devono risarcire loro. Loro dovrebbero avere un'assicurazione. Sì, ma perché, io non credo sia un problema, Giovanni, di assicurazione. Ma no, voglio dire, chi avrà tutte le assicurazioni, immagino che copriranno i rischi. Prego, Giovanni. Questo, scusate. Cioè, allora, se la responsabilità, come diceva giustamente Giorgio Teruzzi, cioè non è di chi è, ma stiamo scherzando a far correre una gara e a mettere a repentaglio il rischio di vita di piloti con una gru in pista, cioè per lo spettacolo. Ma io, cioè, veramente rimango veramente, cioè, che si sta ancora parlando di chi è o di chi non è la responsabilità. Cioè, ma la responsabilità è chiarissima. Però hai sentito, Giovanni, che anche dentro il mondo della Formula 1 c'è uno come Niki Lauda, che un po' di esperienza ce l'ha, che ad esempio ha un'idea diversa da quella che possono avere tutti in questo momento, vedendo poi quelle terribili immagini. Ci fermiamo? 800 24 00 24, torniamo subito. Dobbiamo esportare la Sampdoria, perché ci siamo comprati un attico in Sampdoria. Allora, ti piace? Come mette la calotta per me? Si mette la calotta di Crozza? Cioè, lo devo imitare, perché lui è stato buono a imitare me, io imiterò bene. Ah, vuole fare l'imitazione di Crozza, lei? Magari chi c'è casa. Fantastico, ma fantastico. Ma fanno fa... Tutti convocati. Sono due campioni, penso che loro sono, come ti ho detto, due campioni, penso che oggi sarà una bella partita. E davvero sono contento di poter giocare con lui. Lui è un campione, un simbolo per questa Roma, è davvero bellissimo. Cosa vuol dire per un giocatore come te giocare vicino a Carlitos Tevez anche in questa nuova posizione? Buono, per me è molto importante, no? Avere un giocatore del suo carattere, della sua qualità, no? Grandissimo giocatore che veramente ha cominciato quest'anno in una maniera fantastica, e speriamo che continui così, facendo tanti gol, anche io possa farlo per aiutare la squadra. Bueno, oggi partita difficilissima, speriamo fare una grande partita. Così parlarono Iturbe e Llorente, colti proprio in diretta da Sky mentre entravano negli spogliatoi, squadre che in questo momento sono in campo. Tanto saluto Fabrizio Biasin di Libero, che ci ha raggiunto. Giovanni, ciao Fabrizio, vedrà la partita con noi e anche insieme a voi. Ricordo 800 24 00 24, chi chiama e interviene la maglietta per i 15 anni di Radio 24. Poi non lo dico più, ma ha detto Giorgio Di Luca. Sì, magari te la diamo, magari vediamo. Magari. Dario Ricci da Torino, Dario. Eccoci dallo Juventus Stadium. Giovanni, con il nostro primo ospite Filippo Bonsignore del Corriere della Sera, commentiamo le novità di questo Juventus-Roma, non poche e tutte pesanti, a partire dalla presenza di Pirlo dal primo minuto della Juventus. Filippo, al posto di Vidal, ha fatto bene Allegri, lo dirà il campo, ma al momento... Lo dirà il campo, hai ragione, certamente è una novità che nessuno si aspettava, perché Andrea Pirlo torna dopo titolare, torna dopo l'infortunio patito a fine agosto nel trofeo. proprio team, non aveva ancora zero minuti ufficiali nelle gambe, come ha detto lo stesso Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di vigilia. È sicuramente una scelta sorpresa, non tanto per chi va a sostituire Vidal, perché anche Vidal era un po' in dubbio, nel senso si era parlato negli ultimi giorni di un Pereira favorito per rimpiazzare il cileno che sta vivendo un momento non particolarmente felice, come abbiamo visto in Champions League a Madrid. Certamente Pirlo dal primo minuto è una novità importante, Pirlo di nuovo quindi nel cuore del gioco della Juventus con Marchisio e Pogba ai suoi lati, tutto il resto è tutto confermato, la presenza di Asamoah al posto di Evra, ce l'aspettavamo già ieri, ed è confermato dalle formazioni ufficiali, quindi staremo a vedere. Sì, mi sembra Dario che si sia assunto una certa responsabilità, lo chiedo anche a Fabrizio Biasin, alle tenendo fuori Vidal, tutti aspettavano il rientro di Pirlo comunque perché è mancato anche a questa Juventus, però forse certifica anche che Vidal continua a non essere pronto, ad avere qualche problema. Beh, sicuramente non è al 100%, però è un giocatore che comunque dà sempre delle garanzie. La verità è che Pirlo non lo puoi lasciare in panchina, io credo che abbia fatto una scelta giusta Allegri, cioè o non lo convochi, lo lasci fuori, non ce l'hai, oppure se ce l'hai deve giocare. Con Pirlo ha delle garanzie ulteriori rispetto a quelle che avrebbe avuto con Vidal. Sì, pensando anche Dario a tutti i discorsi che abbiamo fatto quest'estate quando Allegri è arrivato sulla panchina della Juventus, sul suo rapporto con Pirlo, sul passato, sui problemi avuti al Milan. Io ripeto, secondo me scelta coraggiosa, Dario. Sì, scelta coraggiosa, ma forse anche dettata dalla necessità di saper scalare le marce, di saper controllare il ritmo di una gara che la Roma sembra voler impostare, lo chiedo ancora a Filippo Bonsignore, a tutta velocità. La scelta di Turbe, certo per il non lento Florenzi, ma soprattutto anche quella di Olebas, sempre a sinistra su un Ashley Cole a dir poco altalenante, Filippo sembra voler confermare uno schema che vede Totti come trampolino per Gervinho, Iturbe e Olebas, no? Sì, sembra una Roma tutta trazione anteriore, anche questo era uno dei dubbi della vigilia, Iturbe o Florenzi, l'ha spunta il giovane argentino che torna dopo l'infortunio, quindi una Roma quasi ex juventino, quasi potenziale juventino, esatto, juventino mancato per poco. Certamente si annuncia una partita molto molto interessante, molto scoppiettante, con appunto quella Roma che proverà a interrompere la tradizione negativa allo Juventus Stadium degli ultimi 3 anni, quindi sicuramente con questo schieramento scelto da Rudy Garcia sicuramente non sarà una Roma che aspetterà, ma vorrà offendere. Sì, intanto per il momento Dario ti saluto, resta lì e magari fra qualche minuto ci sentiamo con un altro ospite. Io faccio anche notare, stavo dando un'occhiata alla formazione della Juventus, questa è la Juventus di Conte. Che Allegri non ha fatto nessun tipo di rivoluzione e io credo che abbia fatto anche in questo caso una scelta intelligente. Su Pirlo io penso che possa anche essere dettata questa scelta da quello che è successo a Madrid. Si è reso conto Allegri che con un certo tipo di avversari probabilmente hai bisogno di un po' più di fantasia in campo. Sì, perché la partita di Madrid, che ne dica Allegri, non è stata una grande partita, soprattutto dal punto di vista della costruzione del gioco. C'è Marotta che sta arrivando ai microfoni di Sky. Buonasera. Lo sentiamo. Io con Beppe Marotta vorrei porre l'attenzione sulle due sorprese di questa sera. Vorrei partire con Pirlo titolare. Che segnale lanciate alla Roma schierando Pirlo al primo minuto? Ma il primo segnale è quello di avere un giocatore molto importante a disposizione. Oggi è rientrato finalmente in questa stagione e quindi è un'ulteriore possibilità che Conte ha nella scacchiera della rosa a disposizione per giocare le partite con alternative diverse. La sorpresa dall'altra parte invece si chiama Iturbe, che come sapete, insomma, come sanno a casa, la Juventus ha inseguito fino all'ultimo secondo in estate. Le vengono i brividi, insomma, a vederlo in campo dall'altra parte, ripensando a quello che è successo quest'estate, alla partenza di Conte, a tutto quello che si è detto. È chiaro che Iturbe è un giocatore della Roma, è un giocatore forte. Noi quest'anno nel calciomercato abbiamo cercato di contattarlo e tutto, però evidentemente la Roma ha avuto più disponibilità e quindi è riuscita a centrare questo colpo di un giocatore, a mio giudizio, molto valido. Non so se si è accorto, è chiaro anche che la Juventus quel giocatore l'avrebbe voluto, e c'è chi racconta che Conte abbia sostanzialmente deciso di chiudere quando, salendo in macchina dalla Puglia verso Torino, Fabrizio ha scoperto che Iturbe atterrava a Roma e non a Caselle. Sì, questa è una delle tante leggende che sono nate quest'estate. La verità è che Iturbe lo volevano in tanti, lo voleva anche il Milan, si è detto, per un certo periodo. È un giocatore che si sta inserendo, non si è inserito benissimo come altri giocatori della Roma, ma lo vediamo, ha un grandissimo potenziale. Allora, noi stiamo raccontando sia i minuti di vigilia, mancano 17 minuti a Juventus-Roma, però stiamo ovviamente parlando anche di quello che è successo questa mattina a Suzuka, e siccome siete in tanti anche che ci state scrivendo e telefonando per parlare delle responsabilità per l'incidente di Jules Bianchi, e allora noi abbiamo convocato Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ciao direttore. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Fatalità o no? Sono aiutata da un po' di incompetenza, un po' di disattenzione. La Formula 1 spende milioni, se non miliardi, per la sicurezza, poi però fa andare in una via di fuga un mezzo come una gru, come un trattore, che dir si voglia, in condizioni di visibilità pessima, all'uscita di una curva dove si era appena visto che c'era troppa acqua e le macchine rischiano di aquaplaning. È una leggerezza che forse può costare grave, anzi sicuramente è costata grave a un pilota che adesso sta lottando per vivere, ed è qualcosa che la Formula 1, che è la punta dell'iceberg dello sport motoristico, non può permettersi e non può fare. Quindi ci sono delle responsabilità in assoluto del direttore di corsa e anche dei commissari. C'è addirittura uno che sventolava una bandiera verde sopra sì, la c'è stata grandissima confusione in quei drammatici minuti. Però bisogna anche dire, secondo me, direttore, che noi in questa mattinata folle, nostra mattinata da Suzuka, abbiamo anche sentito ad esempio nei primi giri, quando c'era una visibilità bassissima, tanti piloti, alcuni piloti chiedere via radio al team che si corresse, che togliessero la safety car, che insomma, perché poi i piloti sono agonisti. Sono agonisti, e forse la direzione gara risponde anche a questo. La cosa un po' assurda è che mentre dopo i primi giri si capiva che si poteva tirare via la safety car e farli correre, invece si è fatta andare avanti la safety car per altri giri, nel momento del bisogno in cui una safety car si doveva mandarla in pista per far rallentare la gente in quella, mentre interveniva la gru, non si è pensato di farlo. Quindi insomma, e purtroppo, cioè, è vero che i commissari cambiano da gran premio a gran premio e ci sono paesi che hanno culture motoristiche diverse e che magari non sono abituati a questo tipo di gare. In Giappone qualcosa non era mai capitato. Qui io credo che le maggiori colpe vadano al direttore di corsa Charlie Whiting, che non ha considerato la pericolosità di quel mezzo che proprio sulla via di fuga stava intervenendo. Poi ci va la sfortuna, ci va tutto, perché insomma che il povero Bianchi sia uscito di pista proprio a quella curva e sia andato a infilarsi proprio contro quella gru è qualcosa di dovuto al destino. Sì, c'è anche certamente a colpire proprio in quel momento. Però cioè, ci sono delle responsabilità sicuramente. Sì, non so se cambierà qualcosa, perché ogni volta quando siamo davanti a una tragedia, e speriamo che questa sia una tragedia, perché comunque lo è, ma che insomma non porti alle estreme conseguenze, tutti diciamo le cose cambieranno. In Formula 1 molto si è fatto per la sicurezza, evidentemente serve ancora uno scatto. Grazie Zappelloni. Va riconosciuto che comunque sta in Formula 1, era 20 anni che non capitava più un incidente di questo tipo, perché dopo quel weekend drammatico di Imola si è intervenuto pesantemente per cambiare le regole e rendere tutto più sicuro, insomma. Grazie Umberto Zappelloni. Grazie a voi, buona serata. Tutti convocati. Sì, ne parliamo per molto, secondo me, di quello che è successo oggi a Suzuka. Io non so come la pensi tu, Fabrizio. Guarda, quando vai a 300 all'ora la fatalità c'entra sempre, in questo caso qualche responsabilità c'è, bisogna stare più attenti, bisogna essere lungimiranti, però è anche molto complicato. Probabilmente in caso contrario avessero interrotto la gara, avremmo parlato di altre polemiche, di altre cose. Sì, ma la verità è che nei primi giri, ma si è sentito anche tra i commentatori, in tanti dicevano sì, però Formula 1 è anche un po' di rischio, non si può fare tutta la gara dietro la safety car. Poi è ovvio che davanti a quello che abbiamo visto i pareri cambiano, certamente ci sono delle responsabilità, certamente ci sono degli errori, però attenzione, perché poi spesso si dice il contrario. Quante volte abbiamo detto questa Formula 1 oramai è diventata una cosa solo elettronica, non c'è più il rischio, non c'è più l'elemento umano. Marco da Macerata, 800 24 00 24, no, è caduto. Stefano da Modena, Stefano. Buonasera. Eccoci, prego. Io volevo intervenire sul discorso Juventus, che sono juventino. Sì. E sono preoccupato questa formazione che sembra che vada in campo, con Pirlo dal primo minuto che ha 0 minuti sulle gambe ufficiali. Volevo sapere se anche voi come me o la pensavate nel mio stesso modo, cioè avrei preferito una Juve muscolare con Marchisio al posto di Pirlo e con e con magari se Vidal non può giocare con Pereira, però un po' più muscolare perché lo vedo leggerino lì di dietro. Ma evidentemente Stefano si è accorto Allegri che in mezzo serve il direttore d'orchestra. Più che altro, Stefano, secondo me sarebbe un azzardo con tutti gli altri giocatori del mondo, con Andrea Pirlo che è unico, puoi prendertelo questo rischio. Sì, tanto credo sia un giocatore che non fa grandissima fatica ad andare in condizione, quindi evidentemente se viene rischiato è vero che ha zero minuti nelle gambe. Io credo che nella testa di Allegri ci sia la volontà di farlo giocare magari poi un tempo e mezzo al massimo comunque. Sì, a me interessa molto anche capire quale sarà l'approccio della Juventus a questa partita. Marco da Macerata, no, Angelo da Modena, chi è che c'è adesso? Angelo? Angelo in linea. Prego. Salve, scusi, innanzitutto vorrei iniziare con... Scusate, sono in macchina, quindi penso un attimo prima alla guida. Comunque, sì. Meglio dopo. Direi che siamo in tema. Perfetto, scusatemi. No, innanzitutto mi viene la pelle d'oca a pensare oggi cos'è successo a Suzuka. Aperto e chiuso parentesi, tutti i miei migliori auguri a Bianchi. Anche se il mio ricordo va anche a Ratzenberger e Senna. E uno. Due, parlando di Juventus-Roma, vorrei mettere un po' di peroncino, poi vedete voi cosa succederebbe se per caso dovesse vincere a Roma con un gol di Turbe. Sarebbe bellissimo. Secondo me ci sarebbe qualcuno che oggi non lavora più per uno dei due club, ma non faccio il nome, Fabrizio. Sì, però sta lavorando in questi giorni. Però sta lavorando intensamente, che forse una risatina se la farebbe. Non lo so, Dario Ricci, Torino. Sicuramente è uno dei temi caldi di questa sfida, e così come stuzzicante anche l'ipotesi tattica proposta dall'ascoltatore precedente. In effetti la presenza di Pirlo potrebbe essere probabilmente a termine, no? Per questa parte iniziale della gara, soprattutto per gestire il ritmo. Attenzione, perché questa Roma arriva agguerrita, carica, forse con qualcosina in più fisicamente. Allora Allegri che fa? Ti rispolvera il grande direttore d'orchestra, come giustamente l'avete chiamato da studio, Giovanni, per gestire il ritmo e per far sfogare magari giallorossi e colpirli magari in modo più chirurgico, perché magari dal punto di vista fisico a questa Roma oggi come oggi dietro non gli si sta. Mi racconti, Dario, qual è la carica dei colleghi di Roma, che noi sappiamo essere, oltre che professionali, anche molto passionali. Cioè, qual è l'aspettativa intorno a questa Roma, a questa partita? Tanta, davvero tanta, sono arrivati in massa, così come un buono spicchio dello Juventus Stadium è per i tifosi giallorossi, tante aspettative, glielo leggi negli occhi che c'è, si spera in un colpaccio. Questa partita, Giovanni, vale 9 punti, 3 in classifica, i 3 dello scontro diretto e altri 3 ce li metto io perché è il peso psicologico del risultato di oggi. Sì, anche se io lo ripeto, non per smorzare gli entusiasmi, non è decisiva questa partita, può essere condizionante. Aspetta Dario, perché abbiamo un'altra maglietta da segnare. Oggi io lo ricordo, 800 24 00 24, chi chiama ed interviene la maglietta per i 15 anni di Radio 24. Marco da Macerata, ultima chiamata, Marco. Salve. Ci sei? Allora, perfetto. Soltanto dire questo, i miei migliori auguri di pronta guarigione al pilota che si è fatto male, però sarebbe ora che tutti, che in questo particolare periodo di tempo in cui viviamo, che c'è tanta crisi, tanti sono disoccupati, e questo grande circo delle corse che assorbe tante risorse, tante denare, ecco, se ne decurtasse un bel po' per a favore di tutte queste persone, questi giovani che non hanno lavoro, via dicendo. Sì, però io non capisco, Marco, perdonami, poi ti ringrazio, non capisco cosa c'entri. Per carità, mondo della Formula 1, mondo ricchissimo, ma è anche un mondo che produce posti di lavoro, indotto, tasse, non cadiamo nell'errore. Lo stesso errore che sta facendo, secondo me, il governo Renzi, tassando il calcio, come se con quel miliardo che pagano i club non si fossero garantiti almeno la polizia. Grave errore, anche secondo me è sbagliato, come si dice, mischiare le pere con le mele. In questo caso Renzi deve fare sicuramente un passo indietro e magari pensare meno anche al TFR. Sì, 800 24 00 24, Dario Ricci, ti do appuntamento fra pochissimi minuti perché, lo ripeto, siamo in onda fino alle 20 per raccontare Juventus-Roma, formazioni con Pirlo nella Juventus al posto di Vidal, con Ole Bass al posto di Cole e Iturbe al posto di Florenzi nella Roma. arriva anche per Luigi Pardo, subito dopo il GR. Bet Corner. Quote e pronostici. Questa sera si chiude il sesto turno di Serie A con in campo tutte le squadre impegnate giovedì in Europa League, una contro l'altra alle 20:30 al Franchice Fiorentina Inter. Sono queste le quote SNAI per questa partita. L'1, la vittoria dei Viola che sono favoriti, è quotata a 2,45. L'X è a 3,30. Il 2 invece è quotato 2,85. Al San Paolo, sempre alle 20:45, c'è Napoli-Torino. L'1, la vittoria degli azzurri, è quotata 1,55. L'X è a 3,80. Il 2 invece, con il successo dei Granata, è quotato 6,50. Sunday night anche di grande calcio internazionale, con la Ligue 1 in campo per l'affascinante Paris Saint-Germain-Monaco. Si gioca al Parco dei Principi alle 21. L'1, la vittoria del Paris Saint-Germain, è quotata 1,45. L'X è a 4,25. Il 2 invece, con la vittoria della squadra del Principato, è quotato 7. Sempre alle 21 al Bernabeu c'è Real Madrid Atletico Bilbao. L'1, la vittoria delle Merengues, è quotata 1,20. L'X è a 6,50. Il 2 invece è quotato 14. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi. A risentirci domani. Convocati. Allora tuffiamoci in Juventus Roma, 6 minuti 30 sul cronometro, 0-0, 800-24-00-24 invece il numero che dovete fare per vivere con noi la partita. E chi interviene in diretta, maglietta celebrativa dei 15 anni di Radio 24, Fabrizio Biasini in studio, Pierluigi Pardo. Ciao Pier, come va? Tutto bene, tutto a posto. Sono aperto la partita, gli studi Mediaset, fra un po' faccio gli highlights, insomma dai, tutto bene, tutto procede. Sì, che ne dici dei primi minuti? Beh, per ora non è successo nulla, diciamocelo apertamente. La notizia più importante rimangono le scelte, quindi la scelta di Turbe nella Roma e soprattutto la scelta di Pirlo nella Juve. Questa mi sembra la cosa più importante. Per ora equilibrio, ma insomma siamo veramente all'inizio. Sì, siamo veramente all'inizio, io lo dico da qualche giorno, a me interessa vedere qual è l'approccio della Juventus, se è il solito approccio feroce della Juventus che fu di Conte a queste partite, forse è presto, 7 minuti per giudicare, però mi sembra una gara certamente equilibrata, Fabrizio, come ce l'aspettavamo o forse no? Perché la Juventus ci aveva abituato a qualcosa di diverso. Ma è partita benino la Juventus, però devo dire che la Roma non ha paura. Secondo me rispetto al passato c'è questo atteggiamento meno impaurito della Roma, che prova a giocarsela a viso aperto. Sì, anche se in realtà l'anno scorso l'atteggiamento della Roma fu forse troppo... Sì, loro fecero una grande mezz'ora, mezz'ora. Che alla fine la Roma partì fortissimo l'anno scorso, poi dopo aver concesso il primo gol chiaramente la partita cambiò profondamente, ma insomma diciamo che lo Juventus Stadium fa paura, questo lo sappiamo, fanno paura alla Roma anche i numeri degli ultimi anni, questi famosi 14-1, però insomma poi ogni partita fa storia a sé, come si dice banalmente, e soprattutto oggi misureremo la crescita dal punto di vista della personalità alle spalle più o meno larghe della Roma in una situazione veramente da grande banco di prova. Sì, mi pare comunque che la Roma abbia iniziato un po' come ha fatto a Manchester dopo aver metabolizzato il gol preso su calcio di rigore, cioè con grandissima personalità, un calcio d'angolo e l'ha tirato la Roma. Dario Ricci, Dario. Sì, nono minuto di gioco con la Juventus Stadium, 0-0 come sottolineate da studio, partita chiaramente molto equilibrata, da segnalare il colpo di testa di Keita su angolo di Totti al quinto di gioco e poi un primo pallone rubato da Pjanic a Pirlo, staremo a vedere se ne seguiranno altri pochi istanti dopo, però quasi Corruzzi e Mangambiwa fanno la frittata e Tevez non ne approfitta. Una Juventus pronta direi a approfittare appunto di questi eventuali errori della retroguardia giallorossa. Ora è proprio Pirlo che allarga su Asamoah all'altezza del centrocampo, si fa avanti il ganese con Pogba che si propone per la sponda, ma palla che arriva a Chiellini e Bonucci va a rimpostare ancora su Chiellini che ha davanti a sé una quindicina di metri prima che Keita lo affronti. Ora è Tevez che appoggia sullo stesso Pirlo, sempre sulla tre quarti, manovra molto difficile per la Juventus che si ritrova subito poi sulle caviglie i centrocampisti giallorossi, come in questo caso Nainggolan che respinge il pallone ancora a Bonucci che appoggia su Chiellini, si allarga ancora Asamoah a suggerire il passaggio sulla sinistra, Asamoah punta McGon Sì, mi sembra una Roma molto rapida, molto ecco corta. Ecco Tevez, prova a entrare a sinistra, distacco qui, Torrente, ha contatto con Manolas, chiede il rigore, anzi no, era Marchisio, chiede il rigore, il bianconero, Rocchi è di tutt'altro avviso, si continua a giocare. Sì, adesso la riguardiamo, Pier, che impressione ti ha dato? Beh, prima vera incursione della Juve, una grande discesa da parte di Tevez, un tiro sporco col mancino, poi... Sì, ma non fare il democristiano, no, che impressione no, ti ha dato il contatto? Sì, sembra rigore, eh? Una cosa da telecronista, in quell'istante esatto è passato il replay e quindi ho fatto praticamente come se stessi... Hai temporeggiato, Piero. No, non faccio 0-0, sul rigore non mi è sembrato rigore, adesso lo vedremo. Ti è sembrato rigore, Fabrizio? Oh, a me è sembrato di vedere un contatto, più che altro Marchisio aveva preso la posizione, sembrava in vantaggio. Una cosa bellissima, dall'altra parte c'è l'arbitro De Marco e c'è anche Graziano Cesari, vediamo che mi dicono, col linguaggio del corpo. E la moviola... Andiamo al responso, sì, in diretta. Ci sei, Pier? Cesari non sbaglia. Cesari ha fatto una faccia, come dire, De Marco che dice? De Marco... dice che non era rigore. Non era rigore, va bene. Poi li sentiremo, adesso non posso, sto facendo l'interpretazione dei gesti, non vorrei. Sì, poi andiamo avanti a interpretarli. Il calcio daranno. Adesso vanno a vedersi bene le immagini. Sì, però ce lo dici, se no li mandiamo via. Ve lo dico, poi non è che è un segreto, insomma. 800 24 00 24. No, perché oggi diamo anche le magliette, Pier, se vuoi te la mandiamo. Ci devi dare la taglia. La taglia ci devi dare. Happy birthday to Radio 24. 0-0, azione della Roma, Pjanic dopo lo scambio con Totti. Comoda la presa per Buffon. Samuele da Trento, Samuele. Sì, buonasera, salve a tutti. Buonasera, volevo chiedere come scelta discutibile di Allegri in Juve Atletico la decisione di aver mantenuto dentro Pogba, evidentemente in difficoltà, e magari non sostituirlo con Asamoah o qualcun altro. Sì, Asamoah sta giocando, gioca al posto di Evra, largo a sinistra. Io credo che se avesse tolto contemporaneamente Vidal e Pogba sarebbe stato probabilmente linciato prima di arrivare allo stadio. Comunque sia, poi, col senno di poi, io credo che Allegri abbia capito di aver fatto qualche errore, tant'è che oggi non ci ha pensato due volte, ha messo Pirlo. Sì, Marco da Latina, Marco. Ciao, buonasera a tutti. Prego. Io... la maglietta la vorrei della taglia di Pardo, perché sì. Abbiamo lo stesso XXXXXXXXXL. Quindi te ne mandiamo due. Vado lentamente off topic, perché probabilmente sono l'unico sampdoriano che non sopporta l'attuale presidente, anche se per carità va benissimo la serie di risultati e sono convinto che quest'anno altro che parte stradestra della classifica, stra-sinistra anzi della classifica. Sì. Però sinceramente dopo un paio di presidenti seri abbiamo preso un piattista, con tutto il rispetto, quindi non lo so, volevo sapere che cosa ne pensate. Non ti sono piaciute le corna oggi in tribuna? No, bellissime, faceva le corna, però aspettate che vado a Torino perché c'è stato ancora qualcosa da raccontare. Dario. Sì, bella incursione di Tevez al tredicesimo, si è centrato l'argentino, sembrava aver trovato lo spiraglio giusto per battere il destro, lo ha fatto, bravissimo Keita ad immolarsi, a deviare il pallone in fallo laterale, a salvare Scorucci dalla confusione di Carlitos Tevez. 14esimo di gioco, ancora 0-0, ancora Juventus in avanti, ma è Nainggolan a intervenire, a interrompere la trama dei bianconeri per qualche istante, torna Marchisio sul pallone, il colpo di testa di Pogba, alto sulla traversa, ancora 0-0 a Torino. Sì, Pier. No, io capisco, Ferrero è un personaggio che può dividere, però mi sembra che i tifosi della Sampi in questo momento, se danno un'occhiata alla classifica, abbiano poco da lamentarsi. La classifica è eccezionale, la squadra non è chiaramente al terzo posto, lo dico insomma, ma probabilmente non è neanche l'Europa League, però potrà fare una stagione secondo me positiva, a parte il fatto che insomma già i punti conquistati oggi sono un fatto, nel senso che anche in un'eventuale corsa a salvezza, o comunque salvezza tranquilla, questi punti qui sono una dote che ti porti dietro e che già ti mette a riparo da qualsiasi preoccupazione. Sì, negli ultimi anni ci si salva ben sotto i 40 punti, la Samp ne ha 14. Ne ha 14, già sei a posto, ma complessivamente attenzione, palla gol per la Juve, però forse c'è fuori gioco, sì. c'è fuori gioco di rientro abbastanza evidente, lo sapeva, sì, anche sì, te, dunque evidente. Grazie per la Roma. E su Ferrero personaggio, dal punto di vista televisivo ovviamente mediatico è una manna, io lo trovo molto divertente, molto simpatico, lo trovo espressione di quel calcio che tante volte diciamo di rimpiangere, quel calcio un po' antico fatto di figure leggendarie. Poi possiamo capire che i tifosi della Samp magari abbiano qualche perplessità. Però guarda, ci sono varie, ci sono due scuole di pensiero. Io l'altro giorno ero con un tifoso della Samp che mi diceva: finalmente è arrivato uno che ci fa sognare, che ci dà un po' di magia, che ci dà poi probabilmente, diceva, fra 3 anni falliremo, ovviamente era una battuta, insomma, è chiaramente la gestione Garrone, si sapeva che era una gestione sicura e serena, perché Garrone ha alle spalle uno dei gruppi più solidi d'Italia, però c'era questa attenzione ai bilanci e forse anche dal punto di vista della comunicazione, soprattutto dopo la scomparsa del grandissimo presidente, c'era un profilo un po' basso che chiaramente aveva pregi e difetti, insomma, poteva piacere e poteva non piacere. Comunque noi ne vorremmo due di Ferrero. 800 24 00 24, 15:30 sul cronometro, aspettate perché c'è un'azione della Juve. Dario, rado terra, bravissimo Skorupski a anticipare Llorente, che a quel punto avrebbe battuto di destro a colpo sicuro. Da segnalare anche pochi istanti fa, stavolta è stato Totti a rubare palla a Pirlo a centrocampo, secondo pallone perso dal rientrante Pirlo, e questa è sicuramente una notizia, mentre a palvettare nella difesa giallorossa è soprattutto Mbanga Biwa, e la Juventus non a caso sta cercando di metterlo in uno contro uno con Carlitos Tevez, e in un paio di occasioni quasi ci riusciva. 16° di gioco, ancora 0-0. Traffico. E Zema come guarderà la partita? Io la saluto, sì. Simpatizzando per... Simpatizzando per da seduto, ma simpatizzando per... Ma io da 20 anni di Roma, sto a Roma. Tutti convocati. Dobbiamo sempre migliorare partita dopo partita, però penso che siamo sulla strada giusta. Stasera abbiamo proposto tanto, avuto tante occasioni, poi momenti ci facciamo male da soli, ma questo dovremmo migliorarlo. E, insomma, godiamoci anche la prima serata comunque senza aver preso gol, il miglior attacco del campionato, e poi lavoreremo su quello che dobbiamo migliorare. Questo è Pippo Inzaghi. Milan che in questo momento quota 11 è lì, 5 punti da Juventus e Roma che stanno pareggiando 0-0, 18 minuti 20 secondi. Io più lo vedo più mi sembra che quel contatto, carissimo Pier, tra Olebas e Marchisio profumasse di calcio di rigore. Io non l'ho mai più rivisto, adesso non lo so, poi farò un check con Cesari e De Marco. Allora aspettiamo l'esito. Volevo dire che mi sconvolge questa cosa che ci sia grande traffico a Roma, ma sono pazzi. Dove sono? Appunto, voglio dire, cioè, romanisti perché si fa Roma, laziali per gufarla, ma insomma a Roma non dovrebbe esserci anima viva, invece il grande raccordo anulare intasato, veramente incredibile. Non c'è più religione, proprio. Sì, sì. Aspetta che voglio sapere se finire, Aspetta che voglio sapere se almeno Antonio Di Gennaro la sta vedendo la partita. Come Antonio, dice? Ciao. Saluti a tutti, ciao Pier. La sto vedendo. La stai vedendo? Anch'io quel contatto c'ho qualche dubbio, infatti. Insomma, qualcosina di un piccolo contatto c'è, anche se poi, insomma, ha avuto anche l'occasione Marchisio di poter calciare, diciamo, con più forza. Quindi una partita molto equilibrata. Sì, dice, ma a Gaetano Salvemini chi sta piacendo di più? Attenzione a Gervinho, attenzione, palla per te. Chi mister? La Cremonese Cesena. Dovete sapere, lo dico, che è uno dei più grandi imitatori di Gaetano Salvemini. No. Sì, hai due o tre che non lo sanno. Perché... No, l'imitatore è Pierluigi, se lo sappiamo tutti. Sì, sì, poi dopo avremo di fatto anche Fabio Capello alla fine del primo tempo. Fabio Capello. Tu sei una merda. Dai, mettiamo ordine. Antonio, cosa ti sembra di questi primi 20 minuti di Juve-Roma? Poi parliamo del Milan, perché tu ieri sera hai fatto la partita del Milan. Due squadre che si temono, si vedono ovviamente anche per l'importanza della partita. La Juve che li aspetta, la Roma questo possesso palla a volte anche un po' lento, a pochi spazi, quindi la Juve sta cercando di contenere per poter ripartire. Ha fatto due accelerazioni sempre con Tevez, che con questa nuova posizione di quest'anno, che si stacca molto dalla zona d'attacco tra le linee, diventa sempre molto pericoloso. Però, come dicevo prima, una partita equilibrata con due squadre che ovviamente rappresentano il meglio che abbiamo in Italia adesso. Sì, e che sono sempre almeno una spanna sopra il Milan, che ieri abbiamo visto prendere il brodino, cambiare modulo, fare qualcosa per cercare di interrompere questa striscia di sconfitte e di pareggi, e che arriva alla sosta come? Ah, bene, perché Inzaghi quest'anno deve insomma, cambiare molto, cioè ridare un po' uno spirito, il DNA, diciamo, dell'appartenenza di questa grande società. Quindi lui era, diciamo così, il personaggio migliore per ricreare questa atmosfera anche così di grande temperamento, di voglia di poter cercare di arrivare a questo terzo posto, perché sanno che Juventus e Roma, ma credo anche le altre squadre, Napoli, Milan, Inter, Fiorentina, metto anche la Lazio, mi sembra una squadra che si sta riprendendo, però insomma rischiano molto, non sono a livello di Juventus e Roma, quindi il Milan si può ritagliare un campionato non avendo le coppe ha sbagliato un gol. Aspetta che andiamo a Torino, Dario. Lancio di Bonucci in profondità per Marchisio che arriva da dietro, tocca di destro, il pallone esce davvero di pochissimo al lato destro della porta difesa da Torupti. Marchisio che alla seconda incursione è molto pericolosa, che sta giocando davvero centravanti della Juventus, così come dall'altra parte singolare interessante la posizione di Turpe, che nel momento in cui la Roma è in possesso palla e costruisce l'azione offensiva va a porsi proprio al centro dell'attacco in posizione, diciamo, di falso 9. Bello comunque il lancio di Bonucci, altrettanto bello il tentativo al volo di Marchisio, difficile il destro piatto, è uscito di un paio di metri alla destra di Sporuzzi. Sì, mi sembra rivedibile in questo momento la linea difensiva della Roma, che spesso si fa prendere dietro. Dicevo del Milan, stai chiedendo. Il Milan che, come diceva Pippo Inzaghi, sta ricreando questo spirito nuovo, no? Anche diciamo, lui rappresenta anche in panchina, si vede, è come se stesse ancora giocando. Certo è che la qualità della squadra dei giocatori non è quella di una volta, e quindi lui sta in questa, ieri ha cercato di cambiare a livello di centrocampo, ha messo un giocatore come Bonaventura che ha caratteristiche tecniche, però insomma ha fatto anche una buona gara, ha sofferto, anche se poi dopo il primo gol si è visto un Milan magari più aggressivo, poteva anche fare il raddoppio, insomma anche abbastanza padrone del campo. Poi, come diceva lo stesso Inzaghi dopo gara nell'intervista, si sono fatti male da solo, perché hanno preso due contropiedi per errori veramente molto ingenui, anche un po' così leziosi di giocatori che dovrebbero essere molto più concreti, che anche per non sfruttare le loro, insomma, di non tante qualità che hanno. E quindi il Chievo poteva anche pareggiare, però nel complesso mi sembra che Milan abbia vinto una gara importante in un momento dopo che Empoli e Cesena ha raccolto soltanto 2 punti, quindi poteva essere, se non avesse vinto, insomma una piccola crisi. Sì, poi noi abbiamo passato una settimana a parlare della crisi del Milan e adesso io leggo la classifica, il Milan è lì, quinto posto, vediamo cosa fa questa sera l'Inter, ma Firenze è una partita tutt'altro che semplice e potrebbe andare alla sosta sopra l'Inter. Grazie Antonio. Grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie ad Antonio Di Gennaro. 23:40, andiamo a Torino, Dario Ricci. Bravo Ricksteiner, dall'intervento di Ricksteiner che ha concluso. Ha chiuso anche un pericoloso contropiede orchestrato da Gervinho, che ora si è riproposto in avanti con la Juventus che appoggia su Marchisio alla testa della tre quarti. Marchisio chiude la situazione, passa a Pirlo, Nainggolan pronto a pressare sul numero 21 bianconero, che a sua volta appoggia su Pogba, gli si fa sotto Totti, Pirlo allora scatta in avanti, Totti cerca di recuperare il pallone, commette palle, sarà calcio di punizione per la Juventus, da una posizione sicuramente interessante, siamo intorno ai 20 metri leggermente spostati sulla sinistra della porta difesa da Toruppi, e Andrea Pirlo comincia a posizionarsi sul pallone. Vedremo se la lunga assenza ne ha arrugginito il piede destro, affianco a lui anche vediamo Pier se da fermo Pirlo fa la differenza questa sera. La sciocchezza di Totti, a me non piace la conta delle palle perse da Pirlo, però prima ha rischiato di perdere la terza un paio di minuti fa. Pier, adesso vediamo come va la punizione. Pirlo sul punto di battuta. Dario, vai Dario. Eccolo qua, Rocchi con suo spray fissa la barriera ai 9 metri canonici, Pirlo pronto a calciare, Toruppi davanti a lui, ad oscurarne la visuale Llorente, eccolo Pirlo sulla barriera, reclama calcio di rigore, no, un attimo, vediamo, Rocchi ha fissato sicuramente il fallo, allora, di mano, ma è punizione. E a quel punto dobbiamo A me sembrava era dentro di un metro. Allora, l'ha ammonito. Adesso l'ha dato. cuore. Sì, ma gliel'ha suggerito qualcuno, attenzione. Un estremo ritardo, ragazzi. Allora, gliel'ha suggerito qualcuno, Pier, io non so che impressione hai avuto te, ma a me sembra di aver compreso che Rocchi a un certo punto si sia scusato. Ha capito che stava facendo la cavola. Non so se ha deciso lui o qualcuno in auricolare gli abbia detto, attenzione perché era dentro l'area di rigore, Pier. Sì, ma adesso l'importante è capire esattamente dove fosse, perché a me sembrava dentro. Ma adesso fra poco, guarda, mandano il replay dei 16 metri, adesso hanno mandato quello da dietro che è abbastanza inutile, adesso mandano dei 16 metri e da lì avremo un'idea. Allora, Maicon salta col gomito alto. È semplicissima, aveva dato punizione fuori e poi invece evidentemente o con l'assistente gli avrà segnalato che era dentro, insomma. Sì, braccio alto di Maicon che mi sembra palla l'ha colpito sul gomito, mi sembra che l'impatto ci fosse, però adesso lo stiamo rivedendo, ma sai che forse difficilissimo da stiamo capire. Parlando di millimetri, dopo però, i centimetri vogliamo dire che la sciocchezza iniziale di Totti, che per un eccesso di agonismo fa un fallo da dietro a Pirlo, secondo me è inutile. Sì, Torino, Dario. Carlito Tevez contro Skorupski. Venerdì le protesta in giallo rossi, ma parlo del Tevez di destra, Dio, gol! Juventus in vantaggio, Carlito Tevez, Juventus 1, Roma 0. Impeccabile la trasformazione di Tevez che scatta Skorupski, Juventus 1, Roma 0. Allora, Juventus in vantaggio, Pier, noi ci dobbiamo fermare perché abbiamo la pubblicità, però ti incarichiamo di andare agli arbitri che adesso stanno lavorando sulle immagini. Sai, okay. Sai cosa ti dico? Che secondo me era fuori, Ci fermiamo, torniamo subito. No, io adesso non ce l'ho coi froci, che a me i froci sono pure simpatici, ma no. Che mettono allegria quando li vedi che sculettano col boia, allora, strussano il collo. Convocati. Subito Torino, Dario. È successo di tutto in questi due minuti, la Roma ha pareggiato 1-1, calcio di punizione di Pjanic, Liskanen e Totti si abbracciano per Rocchi e calcio di rigore qua sul dischetto, il capitano che scatta Buffon ed allora è 1-1 e pochi istanti prima in precedenza che era stata l'espulsione di Rudy Garcia che dopo il calcio di rigore ha segnato lo stesso Rocchi alla Juventus, aveva politicamente stimato il gesto di un violinista come fosse stato un omaggio alla Juventus da parte dell'arbitro, Rocchi si è avvicinato e l'ha espulso, intanto animi molto tesi in tribuna. Sta succedendo di tutto, a Torino sta succedendo di tutto, aspetta Dario, aspetta Pier, Luca Telese, ciao Luca. Sono Luca. Indignato come metà dell'Italia per come stanno cercando di rubare pure questa partita. Ma un rigore inventato, una punizione inventata e poi quel picchiatore, quella specie di svizzero, non gli hanno detto che non si gioca, sta giocando a rugby ma a calcio. È una vergogna. Sì. È una vergogna. Adesso bisogna menarli. Sì, un commento moderato mi sembra. L'arbitro ha avuto 5 minuti di follia perché sono tutti così e non c'è un commentatore che dice un rigore inventato, la punizione inventata, un fallo da rugby, da espulsione. Perché quello è un fallo da rugby. Attenzione, perché sta succedendo davvero di tutto. Si picchiano. Sì, no, cosa sta succedendo? Manolas per terra. Io nel frattempo qui stiamo preparando le lenti perché sì. Nelle televisioni ci sono le lenti. Allora, insomma, sembra sull'intervento parlo sia con De Marco che con Cesari sul calcio di rigore per la Juve. Sembra che sia di pochi centimetri fuori area e comunque sembra, riporto il giudizio di Cesari e De Marco, fra poco lo sentirete su Premium Calcio, sembra che non sia rigore perché dice la posizione, il pallone è fra spalla e la parte alta del braccio, il movimento non è così naturale, questo mi ha detto Cesari, fra poco a Premium Calcio li sentiremo sul calcio di rigore successivo, un rigore abbastanza inusuale anche se è netto in realtà. Avviene a palla lontana e poi è abbastanza inusuale perché appunto è lontano dal gioco, però insomma l'intervento chiaramente è un abbraccio che non si può fare in area di rigore. Sì, però diceva Luca Telese da espulsione, secondo me no, a norma di regolamento, palla lontana. No, Luca, no, io Io trovo che la decisione del rigore per la Roma ci fosse, il giallo è più che sufficiente, insomma, non è, adesso lo esageriamo, non era chiara occasione da gol. Sì, a me non sembra, io assolutamente no. Lo dico a Luca Telese, lo dico a Fabrizio Biasin che è qui. Scusami, il fallo di Totti non c'era perché ha toccato la palla e tagliano il replay per non farlo vedere bene. Non diciamo cose che non possiamo provare, dai. Il rigore non c'era. No, come? La punizione di Totti ha toccato la palla. Il rigore non c'era. Quello ha fatto il picchiatore. Questi stanno perdendo la testa. È sempre così. C'è una subalternità psicologica alla Juve. Per cui cose che farebbero gridare vergogna da arbitro Moreno non le vedete mai. Però sì, non scaldiamo troppo gli animi, Telese. Non esageriamo. È una vergogna. No, ma c'era anche forse un rigore su Marchisio all'inizio, Telese. Con un bambino che ha iniziato tipo, ma quale? Ha iniziato tipo, adesso ha cambiato idea, perché quando uno vede che sente così. La sì, verità. Aspetta che ti sentiamo male. Allora facciamo così, poi magari ti disturbiamo ancora, andiamo un secondo a Torino, Dario. Allora, 35esimo di gioco, ancora una punizione dalla tre quarti. Mi devi dire cosa sta succedendo intorno alla panchina della Roma? Sta succedendo di tutto perché animi tesi, evidentemente i giocatori hanno subito delle offese da parte dei tifosi che sono praticamente già a ridosso. Sono intervenuti gli steward una prima, una seconda, una terza volta, quasi la panchina, i giocatori tra i più caldi da qui a vista. Mi è sembrato di riconoscere gli Aic, quasi venivano a contatto con la tifoseria. Ora c'è un punto schieramento di steward a protezione della panchina e vi spiego anche perché questo schieramento non ci fosse anche prima. Beh, anche perché di solito non accade, anche negli altri stadi, ad esempio quelli in Inghilterra dove pure le panchine sono in mezzo al pubblico. Allora, abbiamo recuperato Luca Telese? Luca? Sì, eccomi. Per chiudere il tuo ragionamento, sì, ti avevamo perso, poi magari ti disturbiamo ancora. Siamo di fronte a una cosa smaccata, inaccettabile, vergognosa, pure l'espulsione di Garcia. Sì. E il fallo inventato di Totti, il rigore inventato, l'espulsione di Garcia, quell'altro gioca a rugby. Vabbè, insomma, però Pier, mi sembra che parlare di complotto dopo questi primi 35 minuti sia un po' esagerato. Episodi, non dimentichiamo che c'è stato quel dubbio all'inizio per quell'intervento su Marchisio, che adesso rivedremo. A proposito di quello che diceva Luca, vi posso dire, per quello che chiaramente in qualche modo non è mio controllo perché non decido io, ma insomma che conosco, che chiaramente insomma tutte le immagini verranno mostrate, noi abbiamo i nostri due moviolisti al lavoro, quindi non c'è assolutamente, non ci può essere nessun sospetto di voler tagliare un'immagine. Poi nello specifico questa partita qui, mi sono informato, non la stiamo producendo noi perché sono a turno, sono a rotazione tra Sky e Media. Sì, ma io non credo che a Sky nascondano le immagini. Assolutamente, Pier, ti prego. No. Tengo a precisarlo mille volte, ci saranno i moviolisti nostri, i moviolisti loro, e l'episodio verrà mostrato in tutti i modi e in tutte le salse. Sul discorso degli steward voglio dire con chiarezza che insomma è veramente una sconfitta per tutti. Capisco il discorso che faceva Dario e per carità, per l'ordine pubblico arriveremo anche a mettere gli steward fuori dalle panchine. Però è molto triste in assoluto, insomma. Quindi... Pier, diciamo che i primi che dovrebbero darsi una calmata in questo momento sono i giocatori in campo e mi sembra non si giochi più da 5 minuti praticamente. Sì, stanno giocando a calci. Andiamo a Torino rapidamente, c'è un calcio d'angolo, Dario? Sì, calcio d'angolo per la Roma, ma respinge la difesa della Juventus. Intanto l'ennesimo fallo a centrocampo, questa volta a favore della Juventus, a Samoa, come un posseduto si avventa su Rossi e chiede la munizione del giocatore romanista. Tra gli episodi dubbi va anche citata la punizione da cui è nato poi il calcio di rigore della Roma. Infatti, tanto visto che appunto i moviolisti di lavoro ne avranno parecchio. Intanto sì, certo, ritmi da Moviola, va Pirlo a centrocampo che comunque prova ad allargare sulla destra per Lichtsteiner, contrastato ancora da Olebas, la respinta di Keita aiutato da Nainggolan, ora i turbe sembra controllare con un braccio, tutto regolare per Rocchi e allora la Roma può partire di nuovo con Keita che allarga su Maicon all'altezza del centrocampo, ora contratto da Marchisio, si ferma il terzino brasiliano che cerca poi un rischioso passaggio a centrocampo, prova a poppare con il pallone, fallo di Nainggolan, calcio di punizione per la Juventus a centrocampo. Eccoli. 39esimo di gioco, anche questo è un bel intervento da dietro. Io ho la netta anche sensazione che non finirà 11 contro 11 questa partita. Io credo di averne la certezza. Io poi devo fare un ragionamento, però prima ci sono Antonio da Salerno e Nicola da Milano. Antonio, prego. Buonasera, invece la mia era proprio una speranza che finisca 11 contro 11 sì. in modo che non ci siano le eliminazioni da nessuna delle due parti. No, ma non ci saremo anche noi, non ci saranno, Pier, non ci saranno. Poi c'è la parte mia, diciamo, un pronostico, tenga presente, questa è la partita, un primo match, quindi questa è la ritorno, però ho visto fino adesso, tenendo presente anche le apparizioni in Champions, la Roma più squadra. Io penso, non sono tifoso della Roma, premetto, però penso che questo sia l'anno della Roma, vuoi perché ha più fame della Juve, ma la vedo proprio più squadra, e questo è il mio pronostico praticamente. La Roma la vedo che ha più fame della Juve e quindi otterrà un risultato questa. Sì, io non ho capito perché la Juventus è così nervosa. Questo era il ragionamento che volevo fare. Nicola da Milano. È nervosa. Forza della Juve, la forza della Juve è nell'essere nervosa. No, la forza della Juve è nell'essere feroce. Qui mi sembra che a tratti stiano anche perdendo un po' la testa. Ma no, ma secondo me questa qui è la partita fra una squadra più tecnica e una squadra più fisica, fra una squadra più estetica che ovviamente è la Roma e una squadra invece più tenace, più forte, più muscolare che è la Juve, e la Juve soprattutto in casa questo tipo di aggressività. Attenzione, destro piazzato, si salva la Roma clamorosamente, se andare di rigore della Roma, scusate un attimo in radiocronaca, adesso palla larga, possibilità per il cross che però non arriva e quindi abbiamo un attimo. Sì, ci sono un paio di difensori che si sono letteralmente stesi davanti a Tevez che all'altezza del dischetto del rigore stava battendo a colpo sicuro. Io ho ancora Nicola da Milano in linea, però restiamo un attimo sulla partita perché mamma c'è mia. Un calcio d'angolo per la Juventus. Sì, c'è parata, però aveva praticamente la mano assolutamente attaccata al corpo. Sì, sì, no, si sono tuffati quattro, era una trincea praticamente. Sì, sì, assolutamente. Pier, c'è ancora calcio d'angolo per la Juventus con Pirlo che è pronto a mettere in mezzo il pallone. Ecco il traversone che va, ci prova Chiellini, palla fuori, Nicola da Milano. Nicola. Buonasera. Prego. E niente, io stavo vedendo la partita col telefonino, no? Sì. Ho dovuto entrare. Comunque non mi sembra una bellissima partita, poi molto nervosa, molto fallosa, e non ho capito poi l'esclusione di Vidal, cioè non l'ho capita proprio. Ma credo che Vidal in questo momento evidentemente non dia delle garanzie dal punto di vista fisico, Pier. Io credo sia questo il discorso. Penso che sia questo, sicuramente non l'abbiamo visto in grandissima condizione ultimamente, è una scelta che ha sorpreso anche me, assolutamente, anche perché nel caso mi aspettavo in caso di rientro di Pirlo l'uscita di Marchisio, invece Vidal è fuori, ma ovviamente c'è la possibilità che possa entrare, la partita è lunga, la Roma prende un rischio adesso con Skorupski, palla verso Yang Ambiwa che prova ad andare verticalmente, quindi il tentativo di Gervinho, siamo sulla tre quarti della Juve che recupera, dicevo la situazione insomma è sotto gli occhi di tutti, chiaramente insomma Vidal è un giocatore importantissimo, sappiamo le qualità che dà, con Pirlo però c'è chiaramente più geometria, è una scelta coraggiosa e discutibile quella di Allegri, sicuramente una scelta che secondo me in qualche modo conferma quello che io ho detto mille volte, cioè che io sono sicuro che Allegri non abbia niente di personale o di tecnico nei confronti di Pirlo, ma che quella vecchia storia rifacendosi al Milan a quello che è successo, quella vecchia storia era legata più che altro alla era legata, mentre tanto si gioca ci sono le proteste della Juve per un intervento un'altra caduta al limite dell'area di rigore, questa volta di Llorente, Rocchi ha fatto correre. Io dico agli amici che ci accusano di ospitare Telese, di ospitare un ultra, c'è anche chi scrive, Sebastiano 349-238-6666, avete rovinato un giornalista, il calcio fa anche questo, è bello questo. Io dico, potete chiamare anche voi 800-24-00-24. No, chiamiamo Veronesi, chiamiamo Pigi Battista, Pughini, adesso vi do un po' di allora adesso facciamo così, andiamo a rompere un po' le scatole, la gente sta vedendo la partita, sì, per capire cosa, anche quella trattenuta lì al limite, io non voglio, dopo tu hai sempre quel compito lì, quello comunque di a me è sembrato moderato l'intervento di Telese, sì, mi è sembrato moderato. È pronto il traffico, così poi abbiamo tutto l'intervallo per parlare della partita. Traffico, io mi auguro che ci sia, sì, ma anche se non ci sia, beh, sì, cosa? Chi è che dovrebbe? Dai, fatemelo fare. Tutti convocati. L'ha fatto, l'ha fatto. Mamma Dario Ricci, mia. Dario. 45esimo di gioco, la Roma in vantaggio, la Roma in vantaggio, c'è stato Gervinho che ha lanciato in verticale i due, Chiellini sbaglia clamorosamente il fuorigioco e allora l'argentino si trova tu per tu con Buffon e lo batte con un preciso destro sul primo palo e pochi istanti fa ancora contropiede, giallo rosso, Gervinho e Cáceres si infortuna, si strappa probabilmente lo stiramento, adesso è pronta già la sostituzione, Gervinho la palla del KO, ma calcia da pochi metri alto sulla traversa. Roma 2, Juventus 1, quando siamo già nel recupero del primo tempo, e sta per entrare Pereira al posto dell'infortunato Cáceres. Sì, poi c'è da capire come giocherà la Juventus, però ci ragioniamo. Pier, sì. Aspetta che ti passo qualcuno che è là a vedere la partita. Giuseppe? Ciao Pier, ciao Giovanni, come state? Ah, noi benissimo, tu? Io bene, ho visto una Juventus dominante fino adesso, però 2-1 della Roma, ma le grandi squadre. Ma che dominante, Cruciani! No, secondo me la Juve, prima mezz'ora meglio la Juve, sicuramente. Sì, il primo tempo in gran parte è stato, non dico dominato, ma insomma è stato il gioco che ha fatto la Juventus. Però le grandi squadre si vedono anche com'è la rigore, intanto rigore per la Juve. Rigore per la Juventus. L'altro. Anche questo al limite. Mamma mia. Anche questo al limite. Attenzione perché. Poveri moviolisti. Allora, proviamo a raccontarla. È Pogba, mi sembra, che ha cercato di entrare lato corto dell'area di rigore, è andato a contatto con Yan Gambiwa, credo, che difatti adesso sta facendo segno a Rocchi che il fallo era fuori dall'area di rigore. No, con Pjanic. Questo mi sembra netto però, ragazzi. Ma rispetto a quegli altri, siamo sulla linea, forse. Sulla linea, quindi in area. Sì, siamo sulla linea. Sulla linea, quindi in area. Quindi se è sulla linea, è rigore. Allora, adesso andiamo da Dario Ricci che ci facciamo raccontare il rigore. Poi Giuseppe, però stai lì perché di Rocchi bisogna parlare, di questo primo tempo. Dario! Eccolo, calcio di rigore per la Juventus. Il fallo mi è sembrato di Keita su Pogba e ancora Carlitos Tevez che piazza il pallone sul dischetto davanti a lui. Manga Miwa e ancora Olebas per disturbare l'argentino che va a prendere la rincorsa. Ultimi istanti di questo incredibile primo tempo e ora Totti si avvicina a Rossi per discutere sulla posizione del pallone, usa tutta la sua esperienza il capitano giallorosso per innervosire Tevez che prova a mantenere la calma ancora i giallorossi che non escono dall'area di rigore, distinguono Manolas e Marchisio sull'incrocio sull'area di rigore e la lunetta sul lato sinistro. Tevez guarda Rossi, prende la rincorsa, Sorupski fermo, tira il gol, 2-2, Juventus 2, Roma 2, ancora bravissimo Tevez a piazzare Sorupski, 2-2 e finisce ora il primo tempo. È anche ora. Non è successo niente. Niente. Giuseppe, mi dai il voto di Rocchi? Giuseppe, Cruciani? No, non c'è. È svenuto. Forse non ci siete, però teniamolo lì, perché adesso andiamo anche da lui. Pier. Vado a fargli i lights. Sì. Ci sentiamo fra poco. Premi un calcio, 2-2, è successo di tutto. Sì. Andiamo a sentire Cesare. E aspettiamo il secondo tempo. Allora, tra qualche minuto recuperiamo anche Pierluigi Pardo, Giuseppe Cruciani. Giuseppe, ci sei? Eccomi qui. Allora, eravamo sulla linea, sulla linea dell'area di rigore. L'intervento su Pogba mi sembra di dire per pochissimo che questo è calcio di rigore. Allora, noi abbiamo ospitato qualche minuto fa Luca Telese che ha sparato a zero. Ha detto è una vergogna, l'ennesima conferma che gli arbitri vogliono far vincere la Juventus. Secondo me esagera. Io non so cosa ha visto Luca, nel senso che è vero, la Juventus sono stati dai due rigori. Mi è sembrato, si può discutere sul secondo rigore della Roma, io ho visto da lontano ovviamente, ma mi è sembrato la classica compensazione dopo un rigore praticamente inesistente concesso alla Juventus. Dopodiché questo è l'arbitro che ha fatto la finale dei campionati del mondo. Questo è Rocchi, però è comunque buono. È Rocchi, sì. È buono, non mi sembra è una partita che ha rischiato di essere rovinata dall'arbitro per i nervosismi scaturiti dopo i due rigori dati. Questo è il vero problema. Poi mi sembra che in un modo o nell'altro la situazione, c'è stato anche un parapiglia qui tra i giocatori della Roma in panchina e i tifosi della Juventus dietro, ci sono stati 20 minuti di nervosismo che posso dire causati dalla doppia decisione di Rocchi dei due rigori, prima la Juventus e poi la Roma. Sì, poi in realtà dando un'occhiata alla moviola, diciamo forse Maicon qualche centimetro fuori dall'area di rigore con il suo gomito che però era abbastanza largo, mentre il rigore di Totti c'era tutto, c'era assolutamente tutto. Giovanni, io vorrei essere Lichtsteiner, era evidente. Vorrei essere chiunque in questo momento tranne l'arbitro Rocchi, che secondo me se l'è cavata direi bene in una partita, in un primo tempo complicatissimo comunque. Sì, è mancato forse qualche cartellino, non tanto per le proteste, quelle mezze risse, quanto per qualche entrata davvero al limite. 800 24 00 24, Mario da Imperia. Mario, Mario, pronto? Prego. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Sì, ma chi è Ferrero? Innanzitutto, allora, la Juve non è nervosa. No. La Juve ha paura. Ha paura di 11 gladiatori. E questa è la prima cosa. La seconda cosa, all'arbitro gli do l'indirizzo di Salmo Vitacchi. Ma cosa ha sbagliato? Adesso, dai, no. Ammesso che abbia sbagliato sul rigore di Maicon, e ci può stare, però ci diceva per anche Pierluigi Pardo, che era lì con De Marco e Cesari, che stiamo parlando di centimetri. Hanno fatto la lente per capire se quel gomito era dentro o fuori. Mario, capito, ragazzi, ma allora non fai l'arbitro? Sì. Tra l'altro, lui all'inizio non l'aveva dato il calcio, diciamo, di rigore. Che io gli do il beneficio del dubbio, però non lo so, perché la Juve, insomma, troppi benefici ha avuto. A sto punto devo pensare, io vivo in Peria, ma io sono nato a Trastevere, io sono Lupacchiotto, eh. Sì, no, ma qualcosa avevamo capito, eh. L'avevate capito, no? Sì, ecco. Grazie, allora, Mario. La Juve ha paura. Sì, ma anch'io ho questa impressione, secondo me è nervosismo. Ci sono stati dei momenti in cui la Juventus è sembrata davvero nervosa. Grazie, Mario. Renzo dalla provincia di Carbogna. Renzo. Sì, buonasera. Ma che più ne prendiamo, più magliette regaliamo. Sì, Renzo. Sì. Beh, poche parole, un arbitro ignobile, perché. Ma perché? Io non riesco a capire. Decisione. No, ma più che altro non so qual è il vero problema. Che il secondo rigore per la Juve era al secondo minuto di recupero, quando in realtà ce n'era uno. Sì, c'era anche stata una sostituzione a tempo praticamente scaduto. Vabbè, 30 secondi, non un minuto e mezzo. È un arbitro che non è in grado di gestire la partita, ma nel dubbio è sempre pro Juve, perché il rigore per la Roma c'era tutta la vita. E però se devono vincere per forza, mi dispiace, sono arrabbiato, ma se devono vincere per forza è inutile giocare, eh? È una vergogna allo Juventus Stadium stasera, eh? Sì, io però non ho capito, Renzo, scusami, grazie intanto, io però non ho capito, a me sembra che la Roma abbia tutto per vincere questa sera. Possiamo anche parlare dell'arbitro, ma abbiamo davanti un secondo tempo bellissimo. Più che altro è successa qualunque cosa. Io penso che nessun arbitro avrebbe diretto questo primo tempo alla perfezione, perché era impossibile azzeccarle tutte. Bisogna dire che sull'ultimo rigore probabilmente l'arbitro ci ha visto giusto, però sai com'è, per forza di cose quando fischi due rigori alla squadra di casa la gente pensa male, capisci? La Juve ha preso due rigori a cavallo della linea dell'area questa, di rigore, diciamolo, possiamo già dirlo adesso. Possiamo già dirlo adesso, al 45esimo di questa partita comunque passerà la storia, eh. Sì, passerà la storia dai centimetri di Turone. Pensa per quanto parleremo dei centimetri di Keita, di Maicon. Comunque andiamo avanti fino alle 20. 800 24 00 24, chiamate, intervenite, vincete la maglietta e chissà chi vince Juve-Roma. E adesso ci fermiamo. GR Juventus-Roma, vince Roma per me, 2. Vince la Roma? Come, sì. Per me la Juve, per te? X. Non lo so, no, io ti dico che per me vince la Roma, dai, buttiamola lì. Va bene, quindi 1-1 e 2-2.